Allora, inizialmente ho fatto una chiacchierata con Alessandro, mi ha un po' raccontato il tema, tra i due fuochi, e mi aveva suggerito una sua idea, che poi l'ho congiunta un pochino a quello che faccio tutti i giorni. Cioè, non proprio quello che faccio tutti i giorni per lavoro, ma quello che faccio un po' per passione. Ovvero io porto sempre con me uno sketchbook, una Moleskine, e disegno spesso chiunque mi passa davanti. Quindi mi carta di disegnare volti stranissimi, diversissimi. Mi diceva che da un lato ci sono, non so come dire, tra due fuochi degli incappucciati e dall'altro lato delle persone un po' indifferenti, una sorta di boomer. E mi sono divertito quindi a ritrarre dei vecchietti, adoro disegnare le rughe dei vecchietti, però con un viso un pochino, erano volti che ho già visto durante il Covid. Un viso un po' sospettoso, amareggiato. Invece dei giovani dall'altra parte, sempre con una sorta di indifferenza, di malizia o comunque di fastidio. E ho unito queste cose e al centro ho cercato di disegnare uno speaker il più possibile, insomma, vicino alla vostra persona. Poi mi sono divertito a fare la composizione e niente, ne ho approfittato per disegnare un po' quello che mi piace, diciamo. Possiamo dire che l'ispirazione ti è venuta un po', come dire, dai volti per la strada e un po' dalle tematiche fondamentali della nostra campagna abbonamenti. Sì, assolutamente. Volevo chiederti anche in generale come è nata un po' la tua passione per il fumetto, per il disegno. Sì, allora, io mi definisco un illustratore tutt'oggi, anche se sono nato con la passione e con lo scopo di fare fumetti. C'è sempre stato, fin da quando ero piccolo, cercavo di replicare quello che vedevo, i cartoni animati, i cartoni anni 90 che vedevo e chiedevo a mia madre di disegnarli, io cercavo poi, più diventavo, diciamo, grande, più riuscivo a disegnare uguale un po' quello che vedevo. Quindi ho fatto liceo artistico, poi ho scoperto questo corso che all'epoca era abbastanza nuovo e poco conosciuto di fumetto illustrazione all'Accademia delle Arti a Bologna, che io comunque vengo dalla provincia di Rovigo, abbastanza, non so come dire, che non offre molti stimoli per me. E questo corso mi ha permesso di continuare a disegnare, finalizzato magari anche un discorso lavorativo. E quindi ho imparato un po' tutte le dinamiche, i modi, i metodi, le suggestioni per fare fumetti in maniera autoriale. E lì ho scoperto l'illustrazione, che era un altro mondo a sé, non era tanto legato, non so, come le copertine dei fumetti. Era più un'immagine unica che raccontava varie cose, insomma, qualcosa anche che si adatta alle esigenze di mercato, delle richieste, insomma. Quindi ho cominciato poi a fare qualche fumetto, che è stato abbastanza doloroso, diciamo. E invece poi illustrazioni. E questa è applicata a varie cose, come i video animati, agli eventi live, di graphic recording, al web, all'editoria, un servizio dell'immagine un po' a tutto raggio. Ogni anno il mondo del mercato cambia, quindi io cerco di adattare molto il mio segno, ciò che mi permette in effetti di lavorare, la mia versatilità. Senti Davide, dove possiamo trovare altri tuoi lavori per chi, insomma, avesse voglia di dare una sbirciata alle tue tavole? Sicuramente su Instagram c'è la mia pagina personale, una pagina normalissima che si chiama Davide trattino basso o underscore abate con DB. Underscore o trattino basso, cioè semplicemente il mio nome e cognome. Purtroppo non sono molto social, nel senso che per tanti anni ho un po', non so, ho un po' snobbato questo mondo qui. Non posso molto, però sto cominciando finalmente. Quindi qualcosina c'è già lì, sono applicato i miei lavori personali, nei tag ci sono per fortuna i lavori fatti dove la gente ha premura di taggarmi. A breve sarà aggiornata con tutti i lavori possibili. Quindi sì, io per adesso Instagram. Bene, nel frattempo possiamo dire insomma che la tua firma è sull'immagine della nostra campagna abbonamenti, quindi ecco per chi volesse vedere qualcosa di tuo può partire da lì e poi appunto cercarti sui canali social per scoprire qualcosa di più. Ti ringrazio Davide per averci raccontato qualcosa di te e anche qualcosa dietro al lavoro per realizzare appunto la grafica per la nostra campagna abbonamenti, quindi grazie ancora Davide. Grazie a voi.